Pagina 12. La grande mente vede il flusso e l'interconnessione e quindi osserva e discerne senza giudicare. La piccola mente cancella il flusso circolare, l'interconnessione e quindi etichetta, verifica e giudica. Quando funzioniamo a livello della grande mente, siamo nel mondo dell'essere. Essere significa essere parte di un flusso più grande che viene da lontano, di una grande danza, di una grande musica che viene suonata dall'umanità e da tutti gli esseri. Una musica che può essere più locale, una danza più locale, ma che partecipa a questo grande fiume della vita che viene da lontano. Quando siamo nella piccola mente, siamo nel mondo dell'avere, caratterizzato dalla ricerca di potere e gratificazione immediata. In un mondo visto come realtà costituita da oggetti separati.